L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati per questa che è la penultima puntata della programmazione, diciamo così, invernale. In luglio ed agosto cambieremo un po', presentandovi una selezione di documentari e docufilm a tema ambientale passati recentemente al Festival Cinema Ambiente di Torino, ma avremo modo di parlarne. Per ora restiamo sulla nostra formula tradizionale, parliamo di due ricerche condotte in ambito universitario, una sulle energie rinnovabili, l'altra in tema di spreco alimentare, nel settore Horeca, quindi settore ristorazione. La condotta l'osservatorio Metronomo, frutto della collaborazione tra Metro Italia, che come noto si occupa di grande, molto grande distribuzione, e l'Università Bocconi. In particolare l'OIF, che è il Centro di Ricerca per l'Energia e l'Ambiente, dove abbiamo parlato con il professor Fabio Iraldo. Metronomo è un'iniziativa che accomuna gli intenti di ricerca e di approfondimento di due soggetti, una è l'Università Bocconi, che attraverso il suo osservatorio sulla Green Economy fin dal 2013 approfondisce temi legati alla sostenibilità nelle sue diverse chiavi di lettura, e Metro Cash & Carry, che attraverso la partecipazione a questo osservatorio, la creazione dell'iniziativa Metronomo, ha deciso dal 2014 direi, e quindi siamo alla terza o alla quarta edizione, di sostenere tutti gli anni un'attività di approfondimento e di ricerca che riguardi una specifica chiave di lettura che interessa da vicino gli operatori del settore Horeca, cioè hotel, restaurants, caffè o catering a seconda delle diverse versioni, e che appunto aiuti gli operatori italiani a sviluppare strategie e iniziative che li portino ad innalzare il proprio livello di sostenibilità ambientale in particolare. Che cosa possiamo raccontare come primo quadro introduttivo della ricerca e dei risultati che ha ottenuto? Beh, intanto la ricerca è partita da una premessa che andava approfondita e che riguarda il tema dello spreco alimentare e del ruolo del settore della ristorazione. È vero che in Europa le stime di spreco alimentare annuale sono molto molto significative, si parla di 90 milioni di tonnellate all'anno. È vero che gran parte di questo spreco misurato dalla Commissione europea avviene soprattutto nella fase di produzione agricola, cioè stiamo parlando di alimenti che rimangono nei campi, ahimè, sotto forma di coltivazioni non sfruttate, però è altrettanto vero che il settore della ristorazione, dell'alimentazione e quindi della ristorazione ha un ruolo molto significativo, e da lì siamo partiti, si parla intorno di una cifra intorno al 15-20% dello scarto alimentare complessivo. È questa la considerazione da cui ha mosso i primi passi la ricerca. Metro Cash & Carry vuole aiutare a ridurre quella percentuale che rappresenta comunque quantitativi non irrilevanti, e la riduzione di quella percentuale si gioca soprattutto sui punti di ristoro gestiti da moltissime piccolissime imprese in Italia. Quindi questo è possibile, diciamo, quel 15-20% può essere compresso e ridotto? È molto possibile, nel senso che dall'indagine che noi abbiamo effettuato non risulta che la ristorazione italiana sia particolarmente avanzata sul fronte delle strategie a contrasto dello spreco alimentare. Ci sono delle punte di eccellenza, ci sono delle iniziative, delle diciamo azioni che vengono condotte un po' a macchia di leopardo, ma i margini di miglioramento sono veramente molto molto significativi. E nel corso di questi anni avete visto comunque già delle iniziative che tendono a ridurre questo spreco? Iniziative da parte di singoli esercizi o di alcune tipologie di esercizi, certo. Noi abbiamo fatto questo studio che ha visto una straordinaria partecipazione, quasi 500 esercenti hanno risposto alla nostra indagine, le indagini scientifiche è veramente una cifra sbalorditiva, e all'interno di queste noi abbiamo cercato di misurare i grandi trend, ma abbiamo anche cercato di valorizzare quelle esperienze che in termini anglosassoni si definiscono best practice, cioè esperienze particolarmente efficaci in cui per volontà di una persona, di un imprenditore o di un esercente sono state sviluppate iniziative decisamente all'avanguardia. Però rimangono delle punte abbastanza isolate. E quindi questo però fa capire che da parte degli esercenti c'è interesse a, no, a comprimere questo spreco, a ridurre lo spreco, immagino principalmente anche per un fattore economico. C'è tutto un discorso ovviamente etico, ma principalmente ridurre lo spreco significa anche sprecare meno soldi. Sì, diciamo che tradizionalmente questa attenzione si è sviluppata per questa ragione. Quando l'imprenditore è consapevole che sprecare cibo, sprecare alimenti vuol dire anche sostenere una perdita economica perché si è acquistato qualcosa che non viene venduto, è chiaro che quello è un driver, una spinta molto, molto forte. Negli ultimi anni a questo si è aggiunto per fortuna, almeno in una certa percentuale di ristoratori, anche la crescente sensibilità nei confronti di un'attenzione del cliente loro che si fa sempre più evidente. Allora negli ultimi anni qualcuno ha cominciato a farlo anche per assecondare delle richieste o delle sensibilità che percepiva nella clientela. Il driver principale però rimane sempre quello del risparmio, tra virgolette. Ma da parte del cliente che chiede questa attenzione, no, all'esercente, al ristoratore, al barista, eccetera, eccetera, c'è poi un'attenzione a evitare lui stesso lo spreco o comunque ad approfittare di situazioni della possibilità, ad esempio oggigiorno, di portarsi a casa il doggy bag, il cibo avanzato, c'è questa, no? Oppure si chiede solo agli altri? Intanto noi nella ricerca abbiamo avuto la possibilità di analizzare queste due dimensioni tracciando un netto discrimine tra quello che il cliente dichiara e quello che poi effettivamente adotta come comportamento quando va a cena fuori, molto, molto banalmente. Dal punto di vista va tenuto conto che anche i rispondenti alla nostra indagine sul fronte dei consumatori finali sono stati veramente tanti, anche qui più di 500 in questo caso, quindi il campione è molto significativo. Dal punto di vista dell'attenzione dimostrata, senz'altro effettivamente vi è una netta indicazione di attenzione al tema. Basti pensare che il 92%, 93% del campione intervistato dice: già oggi io ho una grande attenzione al tema delle informazioni che mi vengono fornite dal punto vendita rispetto alle iniziative adottate per poter evitare o prevenire lo spreco alimentare. Quando invece andiamo a investigare i comportamenti effettivamente adottati dal consumatore, allora a quel punto la consapevolezza crolla drasticamente e le azioni adottate trovano delle barriere molto significative. È stato citato appunto il caso del doggy bag, è una delle classiche, dei classici esempi di iniziativa non ancora molto adottata dalla ristorazione, ma anche perché soprattutto in ragione del fatto che il cliente non lo chiede e quindi non si assume una parte di piccola responsabilità che potrebbe evitare uno spreco. Ok, quindi anche il consumatore ha da imparare qualcosa, magari attraverso il gestore stesso, no, del ristorante, che potrebbe proporre di portare a casa qualcosa di... Gli studi, diciamo, dal punto di vista psicosociale che abbiamo avuto modo di consultare, e ce l'hanno confermato anche gli imprenditori che abbiamo intervistato, identificano nella ritrosia da parte del consumatore a chiedere il doggy bag, no? Il doggy bag, sapete, la scatolotta in cui metto gli avanzi della cena del ristorante. Alla fine la barriera psicologica è stata uno degli elementi su cui ha anche fatto perno ultimamente una campagna informativa della Commissione Europea, che ha capito che quello era il problema, ha cominciato a invitare il consumatore con uno slogan "Don't be shy", a non essere timido, a chiedere a fine pasto, non vergognarsi di chiedere. Secondo la nostra percezione questa è sicuramente una barriera, però il ristoratore potrebbe fare molto per superarla. Molte delle azioni che noi abbiamo proposto configurano un certo atteggiamento attivo da parte del ristoratore. Per esempio, una cosa banale: se è il ristoratore a proporre di non avanzare nel piatto una portata che è stata servita, ma è lui a invitare il cliente a chiedere doggy bag, questo risulta, secondo i nostri intervistati, molto molto più efficace. Perché appunto uno si sente a quel punto meno a disagio, dice: sì, ma me l'hanno proposto, io mi porto a casa. Il comportamento va fatto passare come assolutamente naturale, spontaneo, socialmente accettabile, e quindi a quel punto se diventa una prassi, come per esempio è diventato negli Stati Uniti. E guardate che doggy bag inizialmente riportano, non credo sia una leggenda metropolitana, il nome doggy bag in realtà nascondeva una piccola menzogna, cioè si diceva che era il pasto per il cane da portare a casa, ma in realtà gli americani, eravamo nella Grande Depressione, chiedevano il doggy bag per poi mangiarselo loro. Quindi la barriera c'è modo di superarla facendo entrare queste prassi di riduzione di spreco, questa come molte altre, nella cultura di una società. Le voglio chiedere un'ultima cosa che riguarda Metro Cash & Carry, che è poi stato il motore, diciamo, di questa ricerca. Metro cosa ha imparato, diciamo, da tutto questo, no, nei suoi rapporti con i clienti? Come tutti gli anni, Metro impara dalle sorprese che riscontra nella ricerca e come tutti gli anni ci sono delle sorprese significative, diciamo elementi che sono stati sottovalutati o che Metro non si aspetta nel rapporto da un lato tra i loro clienti, che sono gli esercizi dell'Horeca, e dall'altro con i consumatori finali. Quest'anno la sorpresa è il fatto che appunto i due poli della nostra ricerca, i consumatori e gli esercenti Horeca, hanno percezioni decisamente molto molto diverse, direi simmetricamente opposte. Vi faccio un paio di esempi. Da un lato, se si chiede al ristoratore: ma tu quanto comunichi, quanto rendi partecipe il tuo cliente finale relativamente alle tue iniziative di spreco alimentare, il ristoratore è convinto di fare moltissimo. Se dall'altra parte si chiede al consumatore quanto percepisce e quante informazioni riceve, il consumatore dice praticamente nulla. Quindi ci sono delle discrasie notevoli anche sull'impegno. Lei citava prima le iniziative. Da un lato l'esercente Horeca sta puntando su alcune iniziative più legate magari alla gestione interna delle scorte, al recupero degli sprechi, dall'altra invece il consumatore chiede, salvo poi essere carente nell'adeguarsi, però chiede iniziative rivolte a sé. Quindi per esempio il doggy bag, per esempio la donazione dei propri avanzi e delle scorte inutilizzate, eccetera. Queste discrasie, queste differenze di visione hanno ispirato Metro Cash & Carry nel definire la propria strategia di supporto dei prossimi anni ai propri clienti, in modo da, diciamo, orientarsi verso il recupero, la chiusura di questo gap, di questa differenza, e quindi nell'aiutarlo soprattutto a comunicare di più con i propri clienti. Grazie a Fabio Iraldo, Centro IEF della Università Bocconi. Ci ritroviamo tra poco per parlare di energia. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24, la passione si sente anche in viaggio. Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico, scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy. Ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. L'altro pianeta. Seconda parte dell'altro pianeta, seconda ricerca. Ancora ben ritrovati da Laura Bettini. Cambiamo tema, dallo spreco alimentare andiamo alle energie rinnovabili, che hanno avuto movimenti. Che hanno avuto momenti duri in Italia, ma che ora vivono una seconda giovinezza che fa ben sperare. Questo è il quadro tracciato nel rapporto Renewable Energy, redatto dall'Energy and Strategy Group del Politecnico di Milano, di cui Davide Chiaroni è il vice direttore. Allora, è assolutamente vero, direi che stiamo entrando in una fase che potremmo chiamare delle rinnovabili 2.0. Nel 2016, quindi l'ultimo anno, abbiamo installato 778 megawatt di nuova potenza da rinnovabili, quindi quasi un gigawatt, e siamo arrivati complessivamente ad aver installato 33 gigawatt di potenza da fonti rinnovabili, escludendo l'idroelettrico storico. Se aggiungessimo l'idroelettrico storico arriveremmo addirittura a 51 gigawatt di potenza. Quindi, diciamo, sono due i dati importanti. Uno, la ripresa dell'installazione di quello che chiamiamo mercato primario, quindi nuovi impianti, soprattutto fotovoltaico ed eolico, che vanno ad aumentare la potenza installata. E dall'altro il fatto che ormai ragioniamo su un totale installato talmente significativo che diciamo, non si può più tornare indietro, no? Da questo scenario nel mercato italiano, dove le rinnovabili giocano un ruolo decisamente importante. Perché dico rinnovabili 2.0? Perché effettivamente, come sottolineava lei, abbiamo subito una crisi molto significativa negli anni 2013, 2012, 13, 14 e siamo riusciti a risalire a questo punto la china e cominciare a dimostrare che anche senza un sistema di incentivazione come quello che ha caratterizzato la prima fase di espansione delle rinnovabili, il mercato della produzione di energia da fonti non fossili è un mercato che può in qualche modo stare in vita anche nel nostro paese. Dunque, quella crisi era stata innescata da che cosa? Beh, fondamentalmente la crisi era stata innescata da due fattori. La fine dell'incentivazione sul fotovoltaico e il grosso, cambio di rotta dal punto di vista del meccanismo di incentivazione per le fonti non fotovoltaiche, che in qualche modo aveva destabilizzato gli operatori. Immaginiamo un investitore che voglia realizzare un impianto di una certa scala, ha di fronte un orizzonte per veder ripagato il proprio investimento nell'ordine perlomeno degli 8-10 anni. Di fronte all'incertezza normativa, al fatto che in quel periodo ogni 6 mesi usciva un decreto che correggeva il precedente, chiaramente, no, costituiva un rischio troppo forte che ha bloccato gli investimenti. Appena c'è stata nuova stabilità, si è chiarito definitivamente per il fotovoltaico un sistema senza incentivazione, per le altre rinnovabili un sistema che soprattutto sulle taglie medio-grandi attraverso il meccanismo delle aste dà garanzia sul prezzo di vendita, diciamo, dell'energia, e quindi sul sistema di incentivazione per un orizzonte di tempo sufficientemente lungo, è detto che il mercato è ritornato a investire proprio sulla base della nuova certezza normativa. Quindi questi sono anche i motivi della ripresa, ecco. Assolutamente. E un'altra cosa sicuramente che va aggiunta qui è, nel frattempo c'è stata anche una significativa maturazione della tecnologia. Quindi a chi dice che il meccanismo di incentivazione non è servito, in realtà rispondo che è servito anche a far sì che si potessero sviluppare settori industriali, capacità produttiva, questo a livello globale, sviluppi tecnologici che fanno sì che oggi investire, per esempio, nel fotovoltaico sia un investimento fattibile, economicamente razionale, anche in assenza di sistemi di incentivazione. 7-8 anni fa questo non era possibile. Il risultato, diciamo, di tutto questo processo è stato anche di creare una filiera più solida, con più concentrazione, ma comunque, ecco, più resistente ad eventuali futuri urti. Diciamo di sì. Ovviamente la filiera è stata sulle montagne russe. Quindi abbiamo avuto nel periodo della grande espansione crescite a doppia cifra per la profittabilità delle imprese che operavano nel settore delle rinnovabili, seguite a decrescite, quindi perdite a doppia cifra nel periodo della crisi 2012-2014. Cosa è successo in queste montagne russe? Che chiaramente, come insegna teoria economica, qualche operatore, gli operatori meno efficienti, nel momento in cui si è cominciata la discesa, sono via via usciti dal mercato, sono stati acquisiti, c'è stato un processo di quindi concentrazione, ma anche di industrializzazione. Si è cominciato a pensare alla filiera delle rinnovabili come la filiera del mercato dell'energia, quindi con soggetti che hanno come obiettivo la produzione energetica, la manutenzione degli impianti, l'incremento dell'efficienza della produzione e così via, no? Quindi si è passati da una fase di investimento un po' più di natura finanziaria verso invece un investimento più di natura industriale, e questo sicuramente ha portato benefici importanti alla struttura della filiera del nostro paese. È più solida, probabilmente non è in grado di assorbire un altro colpo come quello, quindi adesso un po' di certezza e stabilità bisogna lasciarla, questa filiera, però è sicuramente più forte, più temprata di quella che si era formata all'inizio del periodo di espansione. Vedo un paragrafo dedicato allo storage e anche al biogas, indicati entrambi come segmenti vivaci. Parliamo in particolare dello storage, che cos'è? Assolutamente. Il meccanismo dello storage è concettualmente molto semplice, è lo stoccaggio di energia, quindi la capacità di mantenere per un certo periodo di tempo l'energia prodotta, messa da parte prima di essere distribuita sulla rete. perché serve lo stoccaggio? Beh, perché in realtà noi abbiamo un andamento del prezzo dell'energia che varia in maniera significativa durante il giorno, ovviamente non il prezzo che percepisce il cliente finale, ma il prezzo al quale viene scambiata l'energia sul mercato all'ingrosso, mettiamola così, che dipende dallo squilibrio temporale tra domanda e offerta. E poi ci sono situazioni zona per zona, quindi la nostra rete elettrica è fatta come un insieme di piccoli nodi nei quali avviene lo scambio di energia, e quindi gli squilibri tra domanda e offerta possono avvenire anche localmente. Che cosa può fare lo storage in questa dinamica? Beh, lo storage può permettere a chi ha prodotto in un momento in cui il prezzo dell'energia è più basso di tenere da parte questa energia e provare a rivenderla in un momento in cui questa energia ha un prezzo più alto. A maggior ragione potrei sfruttare questa opportunità se, oltre a offrire servizi di vendita di energia, potrei offrire quelli che vengono detti servizi in energia. Cioè, per esempio, se c'è un picco di domanda e il sistema di produzione non è in grado di farvi fronte, Terna, che è il gestore della rete elettrica, chiama i produttori a innalzare la loro capacità produttiva. Questo innalzamento della capacità produttiva viene ovviamente remunerato attraverso il mercato dei servizi di spacciamento, che è un mercato apposito dove si gestiscono, anche qua per semplificare, ma credo che renda bene l'idea, si gestiscono le urgenze. Lo storage, anche qua, potrebbe dare stabilità a questo tipo di sistema. Parlando di impianti di produzione di taglia medio-grande. Storage domestico, perché? Stesso principio. Immaginiamo di avere un residenziale che ha sul tetto del fotovoltaico. Magari produce durante la giornata, quando se è una giornata lavorativa non sta consumando, quindi mette in rete la sua energia e poi quando arriva a casa la sera e accende il condizionatore in realtà consuma l'energia e quindi se la riprende dalla rete. Dal punto di vista economico per il consumatore, l'energia che compra, la compra a un prezzo più alto rispetto a quella che cede nel momento in cui lui è via da casa e il suo impianto fotovoltaico produce. Il meccanismo, l'introduzione dello storage, potrebbe permettermi invece, quando sto producendo l'energia con il mio impianto fotovoltaico, invece di venderla in rete, trattenerla in casa e alla sera, quando accendo il condizionatore, invece che comprare l'energia dalla rete, utilizzare l'energia che nel frattempo avevo stoccato nel mio storage. Non ci siamo ancora a questo stadio, C'è ancora da fare qualche passetto dal punto di vista della riduzione dei costi di investimento necessari per lo storage. Molto bene, quindi insomma, Trump o non Trump, il processo è avviato in Italia, ma sicuramente immagino che anche se parliamo di Stati Uniti, adesso non fa parte del vostro rapporto, insomma le cose vanno avanti comunque. Direi assolutamente sì, anche perché l'impiego delle rinnovabili è ormai diventato una componente fondamentale nel mercato elettrico a livello globale. È chiaro che poi i singoli paesi possono più o meno spingere verso forme di utilizzo delle fonti rinnovabili, ma è un processo ormai assolutamente irreversibile. Quindi direi che le rinnovabili sono destinate a sopravvivere ben oltre il mandato di Trump, qualunque sia la sua decisione in merito. Bene, ci fermiamo qui per questa puntata, ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora. Grazie a Davide Chiaroni, vice direttore dell'Energy and Strategy Group. A tutti voi un buon proseguimento d'ascolto da Laura Bettini.